evitare eventuali multe. Ma questi stanno impazzendo, perché se cammini in un senso il virus non te lo prendi, se cammini nell'altro te lo prendi. Questi stanno veramente sbarellando, anche i sindaci si fanno le regole secondo le... ci vogliono rendere tipo automi, capito? Sì, ognuno fa quello che può, Marco. Ognuno fa quello che può. Non so cosa dirvi, è un casino. Ma poi alla fine è solo per battere cassa, per portare i soldi al comune, e la scusa è il Covid. Addirittura in un paese il sindaco, con la polizia municipale, ti aspettavo fuori dal market, no? E se riteneva che tu eri riuscito a comprare poca roba, secondo lui era poca roba, cioè dovevi fare una spesa più grande, se riuscivi a comprare due cosette che erano magari necessarie, ti controllavano lo scontrino, all'uscita del coso, roba mai vista. E se secondo Lugabureddo avevi comprato poca roba, ti faceva fare il verbale dai vigili urbani. Cioè, leggi inventate di sana pianta, questi sono malati, a partire dai sindaci a salire tutta la scala gerarchica. Non lo so, io so che stanno lavorando bene, stanno controllando, stanno facendo la roba, e poi se c'è qualcuno che sta facendo lo stronzo, questo non lo so. E stanno abusando di brutto, magari... Basta guardare i canali YouTube di un certo tipo. Allora, una signora è arrivato il portapizze, no? Erano, sì, passate le 10, no? È arrivato il portapizze che però non saliva al piano, cioè lei si è affacciata al portone, le ha dato la pizza, il portapizze, era tutto pieno di vigili, poi non ho capito perché, vigili urbani assieme a polizia, finanzieri, tutti li erano. Loro dicono che l'avrebbero chiamata e lei sarebbe scappata, ha detto loro, no? Scappata. Questa semplicemente, te lo dico io come andava, ha preso la pizza, si è girata per entrare nel portone, era in pigiama, cioè non è riuscita a fare chissà cosa. Loro hanno detto che l'hanno chiamata, poi bisogna essere vero, l'hanno seguita per le scale, no? In sette. E hanno minacciato di buttare giù la porta se non si faceva identificare. E c'era un po' di tutto, c'era assortimento di poliziotti, finanzieri, carabinieri, chi in borghese, chi no. Probabilmente erano lì a fianco che facevano assembramento per conto loro, no? Perché se lo fanno loro è tutto a posto. Insomma, cose mai viste, cose viste ai tempi del fascismo, forse, ma nel 2020 non mi sarei mai aspettato di vedere cose simili. E dove è successo questo? Aspetta, la città non me la ricordo. Cioè, sì, una signora in pigiama è uscita forse dal portone, ma avrà fatto un passo per ritirare la pizza e rientrare. Poi devi vedere l'arroganza delle donne poliziotto, se ne è uscita con la scusa, ma noi non sappiamo chi è lei, dice, la vediamo fuori col coprifuoco, lei potrebbe essere anche una terrorista, gli ha detto, la poliziotta, questa signora era una signora in pigiama con una pizza in mano, col cartone della pizza in mano, guarda lei, dice, potrebbe essere una terrorista, sono malati di mente. Ehi, se tu ti vedi già vinti. Terrorista, porta pizza del mio pizzaiolo, mi hanno fatto 30 euro di multa, perché non avevo preso il permesso d'autorizzazione dopo le 10. Ma come mai? Ma perché è nero quello che porta le pizze oppure che ne so io, non so il perché. Cioè lui non poteva dimostrare che stava lavorando, no? Esatto. 30 euro a lui, 30 euro a Caccia, di più. E 400 euro al datore di lavoro. Si era buttata la pizza lì. Ma poi sono successe cose anche ben più gravi, tipo a Carbonazzi, no? Quello con quella tipa buttata a terra, trascinata, gli hanno stracciato la maglietta. I vigili urbani, che fino a ieri prendevano calci in culo dai ragazzini in Piazza Castello, adesso che sono diventati polizia locale, si stanno allargando a dismisura, stanno diventando prepotenti anche loro, capito? Fino a ieri pigliavano schiaffoni dai ragazzini di Sassari Vecchia. Ehi, non ho passato il guai, Vigio Urbano. C'è un processo il 7 di dicembre, quella che ha pubblicato il video su Facebook, lo sento, che abita la mia parte. C'è un processo, l'ho denunciata penalmente. L'hanno denunciata penalmente, state attenti, non mettete il video quando fate qualcosa su Facebook. Denunciata la Procura della Repubblica, c'è un processo il 7. È disperata, cazzo. Non è un imbecille lì. Come ti è saltato in mente, ma guarda, manco io così l'ho fatto, cazzo l'ho fatto, tu stai pubblicando un video delle forze pubbliche, lo stai pubblicando in rete di una cosa che sta succedendo, con proprio tutto il parlato, ti sentivi tu dicendolo di tutti i colori, capito? Non so se avete visto quel video, l'hanno denunciata alla Procura della Repubblica, non so per quale reato, e c'è il processo il 7. Ed è una dottoressa, una psicologa, capito? Non è un imbecille, è disperata perché secondo la condanna che prende la radio, non dall'albo dei medici, è disperata, è una cazzata. Allora, sì, l'ho visto il filmato. Allora, io non so che reato si siano inventati, perché lì più che inventato non può essere. Allora, prima di tutto anche Vigili Urbani avevano il volto travisato dalla mascherina, quindi non erano comunque riconoscibili, filmato o non, no? Non erano comunque riconoscibili, quindi non c'è nemmeno la violazione della privacy. A parte che mi pare che gli agenti nelle pubbliche funzioni possono essere ripresi e come, che ne dicano loro, no? Lì ci vedeva, io ho visto lì il reato fatto dai Vigili Urbani, sbattendo a terra quella, malmenando quello, io quello lì ho visto, non so cosa è successo prima. Diciamo che queste cose, se trovi il giudice bastardo, la puniscono per... puniscono il cittadino per aver alzato la testa a me, che poi abbia ragione o meno. È una cosa che va al di là della legalità, capito Claudio? Non c'è né reato di violazione di privacy, perché lì, te l'ho detto, Vigili Urbani, volto travisato dalla mascherina, non sono riconoscibili. Lì però si vedeva il corpo di polizia che faceva violenza a due persone, i motivi non si sanno, perché quello che è successo prima non si conosce. Te l'ho detto, cercano di far paura al cittadino in tutti i modi, minacciando denunce, coglionate varie. E vediamo cosa ne uscirà. Però se trovi il giudice infame, sai, di quelli che dicono che il cittadino deve stare a testa bassa, è probabile pure che non so, che la condannino, spero di no. Intanto gli spacciatori nigeriani sono tutti all'opera, indisturbati, capito? Non è come se ci sono più mafia, non hanno fatto la mano a nessuno, ci sono 200 persone che hanno dichiarato la stessa cosa, perché hanno tutti facciato la finestra, è caduto da solo quel signore, lì non ha fatto la mano a nessuno, lui gridava come una pazza, perché è un'extracomunitaria, era la compagna di questo che, capito, quello scivolato, nello scivolo degli handicappati, è scivolato, è caduto da solo, non ha toccato nessuno, capito? Poi tutto quello che è successo lo so io, perché ero al poggiolo, dall'inizio alla fine, perché anche a me mi hanno chiamato in questura a testimoniare, quindi e io ho testimoniato quello che ho visto, né più né meno, è uguale a me, tutti uguali, tutti, dall'inizio alla fine, capito? Perché stavo passeggiando, quando è passata la pattuglia dei Vigili Urbani, lei stava passeggiando alla marciapiede, senza mascherina, telefono in mano, capito? E ha dichiarato che stava andando a buttare la Mondezza, lei non c'aveva nessuna busta la Mondezza, detto dove stava andando. Mi ha detto che non ha buttato la bombetta, non è stata una guerra. Capite? Quindi ci sono un sacco di cose. E poi c'è l'ottaglio al pubblico ufficiale. C'è l'ottaglio al pubblico ufficiale. Perché, cioè, non ti preoccupare che c'è. Comunque, noi qua, quelli che abbiamo visto, ci hanno tutti convocato in questura, tutti, dal primo fino all'ultimo, più di 200 persone. E tutti hanno dichiarato la stessa cosa. I giovani non hanno alzato la mano, niente, non hanno buttato né ebbe né ebbe, lei gridava come una pazza, ci tirava la ringhiera, la rete che c'è lì del giardino comunale, ha fatto tutta la giura, va tranquillo. E poi quando l'hanno invitata a salire in macchina, insulti a tutta andare, a voci, sia lui che lei, non hanno messo manette a nessuno. E quando è arrivato il 113, perché è arrivato anche il 113, un vigile urbano, li ho arrestati a tutti e due, il 113 e un vigile urbano, sono arrivate due pattuglie, due volanti del 113, quindi, e lì si continuava a filmare fra i bendi, parlando, infami, mi ha detto tutti i rigori, contro la polizia e contro i vigili, facendo il video, fai il video e stai zitto, non ti cazzo parli, è per quello che l'hanno denunciata. Per oltraggio a pubblico ufficiale, per un sacco di reati gli hanno messo, per l'altro che è disperata. Sì, ecco il video, l'ho ritrovato, redazione Cagliari, sì. No, ma io a lei l'ho vista tirare, questo me lo ricordo, l'ho vista tirare che è caduta anche. E vabbè, va lungo però, non voglio dire. Insomma, hanno sempre ragione loro alla fine, dai, come i matti. Non lo so, vedi tu, sono tre pattuglie dei vigili urbani, 2, 4, 6, 6 vigili urbani, altre 4 poliziotti, vedi tu, se tu hai ragione, è chiaro che, ma guarda che loro non hanno fatto niente, assolutamente, loro non hanno fatto assolutamente niente, mi sembra che manco multa gli hanno messo di 400 euro, niente, nulla. Chi hanno condannato è quella del video, quella che ha messo il video, allora non ho fatto niente, perché anche l'altro giorno stavo parlando con il compagno di questa, che è una persona abbastanza accolta, è un signore che tra l'altro ha un bar abbastanza conosciuto, quindi io mi ho portato il cane, perché anche lui c'è il cane, ci incontriamo, non hanno fatto assolutamente niente, capito? Chi hanno condannato, dice che ha preso il video, che mi ha detto di tutti i colori, sia la polizia che ai vigili urbani, mentre stava facendo il video, capito? È lì il problema. Quindi fai il video, cazzo, non c'è una dubbia, stai zitta. No. Invece infamando, tutto infamare, sia loro che alla polizia, qui e là, capito? Questi coglioni, questi qui, questi là. Ma come ti è saltato in mente? No. Così, così, Fabio di Ronaldo, anche voi così, il 7 dicembre c'è il processo, il 7 processo, ed è penale, no, civile, è processo penale, quindi speriamo che, perché questa parte è un medico, è una psicologa, una buona San Camillo, figurati tu, se invece aveva 36-37 anni, 36 o 35, una cosa del genere. Non mettere il mio palazzo, infatti ho fatto il filmato dall'alto, perché io c'ho l'albero, quindi non vedevo un pochino quando eravamo in fondo, ma il pezzo iniziale l'ho visto tutto, perché era proprio sotto casa mia, capito? E invece dall'alto mi sembra che al sesto piano, sì, al sesto Carmela, al sesto piano ha ripreso tutto e ha fatto giù il gasino. Solo che qua mi senti sul commento, mi non è tutto il video integrale, questo è un sunto che hanno fatto breve. Vabbè. Boh. Come è ancora? Ma non è più in rete quel video, allora l'ho preso perché a me mi avevano detto appunto che lo avevano. No, no, redazione Cagliari Pad, sarà qualche giornale online su YouTube. Redazione Cagliari Pad. coppia aggredita da parte dei membri di, inizia a vedere, della polizia municipale. Sette mesi fa, sì, credo che ci sia da allora. Commenti. I commenti sono tutti pro contro quelli che sono stati così. Possiamo commentare quello che vogliamo. Io non vado a testimoniare il falso perché ho un reato, quindi ripeto, assieme a me, consultando le varie persone che io conosco, hanno dichiarato tutti la stessa cosa, quindi i commenti che ci sono commenti di gente che non ha visto un cazzo, quindi quelli che hanno convocato hanno detto tutti la verità, tutto quello che hanno visto, come me e come tanti altri. E ti posso garantire che il video urbano non ha fatto niente. Continuavano a invitarli a tutti e due a salire in macchina e loro continuavano a rifiutarsi. Si rifiutavano, capito? E parlavano anche male, insultavano, facevano, dicevano un sacco di cose. Lui li hanno preso per il braccio, tirandolo a salire in macchina, capito? E lui è scivolato nello scivolo lì degli invalidi, nel marciapiede, non so se no, e è caduto, e basta. Non è successo niente, e lì non l'hanno strappolato, lì la tiravano giustamente, dice venga in macchina, si siede in macchina con noi, andiamo al comando, e lei gridava, alla fine l'hanno presa con le braccia e l'hanno tirata, e lui ha dichiarato che la stavano picchiando, non stavano picchiando niente, le braccia stavano molto male, erano in divisa, davanti a tutte quelle persone si mette a picchiare la gente, che per il posto di lavoro, ma lui diceva bene, ma lascia perdere, sono tutte tronfate quelle che... commenti le cose che hanno detto, chi ha visto lo sa, e io ti posso garantire che non è come dicono, perché la realtà è che nessuno ha toccato nessuno, sono loro che hanno fatto benzina, bastava andare in macchina, sì vabbè andiamo, ci facevano una chiacchierata al comando col comandante, con l'ufficiale che li ha convocati, non succedeva niente. Chi ha preso il colpo è quella che ha fatto il video, perché lei che ha insultato la polizia e dice urbano in viva voce così, come ti gravava i denti con chissà che cosa, e infatti adesso già si è prendendo le conseguenze. Buonasera a tutti, dai, sono io Clara. Adesso ti ho sentito. Scappa. Magari il segnale non è variato per me, però per me c'è tanta differenza. Cioè, purtroppo c'è un pezzo staccato, poi con la calma si vedrà. Adesso ci ho montato questa e paga la grande. Ok. Qua c'è sempre lo stesso, non ha cambiato niente. 9-10 non più positivi. E boh. Che è sempre uguale anche per me, 9,25. Io ho messo la moto a essere vecchio anche per l'Italia, quindi già guadagnato qualcosa in quell'altro lì. Meno meno, quando sia centro storico anch'io uscivo forte via l'Italia, eccetera, eccetera. Con la Grand Prix, perlomeno. No, vabbè, come segnale. Cioè, cosa devi da me? Perché le stazionate è già dove più arriva qua ieri ma infatti stamattina sono andato dove più la carallaggio quello dove c'è sopra il coso di nero della bobina dove c'è la spirale. Vabbè, pazienza dai, sono cose che possono capitare. Adesso questa già è bella fissata a viti e tutte cose. Comunque boh, io sono fissato io, ma voi siete molto più forti di segnale. Cazzo, siete quasi tutta a fondo scala, siete. Anche attenuandovi trovo tanta differenza. Magari il mio segnale non è cambiato, però ieri cazzo mi sono cagato, cioè se avrei avuto qualcosa attaccato mi avrebbe fatto danno qua, sono sicuro. Cazzo, mi si sono salite le stazionarie a 5, minchia mi sono cagato, mi sono. ma mi ha detto a 2, adesso a 5, adesso è un discorso diverso. Comunque sia, io te l'ho sempre detto, la prima Ringo, l'ultima che ha fatto la Lemme, non serve a nulla, l'ha avuta Marco Condor, te l'ho anche detto. Ha una specie di resina spugnosa che non va bene, ha le oscillazioni, se ne scende dal filo e quindi va in corto, hai capito? Quindi a un certo punto l'unica cosa che ho dovuto fare è fargli un foro, fare le misurazioni dentro la filo in modo da avere un'unione stazionale, il discorso è quello lì. Una volta fatto quello, poi gli ho messo il vocalizzante interno in modo che la spugna rimane dove e anche lo stilo, il discorso è quello lì. Invece quel modello che ho avuto, che è preso adesso, che fosse uno dei più vecchi, cosa ne so, che è fatto strutturatamente diverso, cosa del genere, magari potrebbe essere sfuglioso, dove c'è lo stilo in plastica e cosa del genere, che in modo che lo stilo non scenda niente, che è bloccato, va bene, non ti dà nessun problema, il discorso è quello lì. Secondo come girava il vento, faceva da 2 a 5, poi lo riportava giusto, così faceva, variava, ha detto no, in occhi, domani atto, è proprio il suo video. Dai, continuate il vostro QSO che io scendo giù a fare cosa. Grazie del controllo, dai, continuate, scusa se ti ho interrotto, Crae. Assolutamente, sì, problema, sono qua anch'io, sto facendo. Guarda, io su 4 radio, cioè su 3 radio, ho tempo che mi arriva 9 più 10, sono più avanti io di te, più alto e più aperto nei suoi confronti, mi arriva 9 più 10, con picchi a più 12, e quando attacca arriva 9 più 20, cazzatetta arriva 9 più 20, così, hai smesso di stare rapido. Guarda che 9 più lui è attaccato adesso, ecco l'apparecchio è attaccato, se no di solito andava più basso, quindi 9,25 a un certo punto, addirittura anche nell'altro arriva 9 più, nel digitale, figurati tu. Anto, stacca quell'apparato e quel lineare e esci dal mare. Qua ero normale, adesso sono attaccato, guarda a vedere. Allora Anto, se controlli te li do io ti do i controlli miei. Allora col 430, col 440 tu devi dire. Adesso se sei attaccato con la portante, con la carta, stacchi, che mi sembra che tu sei un problema. Prova. 1, 2, 3, prova. Prova a attaccare. Allora, non devi parlare, metti la portante col lineare attaccato, senza attaccare la portante e stacchi il lineare. Poi appena mi dici cosa vedi tu, perché io mi ho messo l'occhiale, ho due radio attaccate, sto commutando, due radio Kenwood, ok, perfette, come ricevitore e come segnale. Prova un tocco, ti dicono che tu c'hai un problema, prova. Sì, lo so il problema che ho, appena alternata. Guarda, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Attenzione, come dico io, 9 più 12 staccato e 9 più 20 attaccato. Questo è il segnale che io ti ho sempre dato, sia nel 140 che nel 430, Antonio. Già, già va bene però, già va bene, non mi posso lamentare, già. Funziona tutto. Meno male, già. Già. Ma tu vado a fare una cosa, continuate il vostro piacere, ok? Riattacco l'altro apparecchio. L'87 stava cominciando a dare i numeri, non so, però secondo me non l'altro. Che strana la cosa, non me l'ha mai fatto una cosa del genere. Tu sei 9,50, io ho problemi, no, sto andando normale, 20 watt, 40 modulati. Va bene Antonio, è uguale a prima, quasi 9 più 15 liscio e 9,20 abbondante quando attacchi. Ma grappa, va. Continuate il vostro questionario che io vado giù. Devo fare una cosa, ci riprendo dopo, riattacco la sua radio, vai. Questo qua ho voluto fare una prova ad alta potenza per vedere com'era. Sono contento perché non mi scalda più niente, quell'altra un po' di stazionaria ce li avevo. Cazzo. Va bene, un po' di stazionaria però è andata. Poi quando è successo quello del vento, cazzo, mi ha fatto cagare un po'. Però dai, poi con la calma, lo vediamo, lo vediamo insieme, claro, che tu magari te ne intendi un po' di più di me, e vediamo cosa si può fare per riparare quell'antenna là. E via, vai. Adesso lascio questa. Ok, continuate. Aspetta, dammi conto da me, come sto scendo? Io ti sento forte. Quanto è il segnale? Sì, quanto è? Qua già fondo scala, sì, di tu e Claudio. E vabbè, aspetta, pensate che io sto pilotando con 5 watt. Guarda adesso, cambia qualcosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saturo? No, no, non mi sembra saturo. Però fammi trovare... Fammi la trombetta, fammi. E come da quella che batte? Infatti. Sto pilotando quasi con 150, cioè, ma fa culo. Quasi con 15 watt sto pilotando, quindi. Adesso scendo, Guarda. Ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda un po'. Super giù sei 9, 20, 20, 25. Così dai, super giù, perché questo qua è digitale. Ok, dai, continuate il vostro QSO. Io devo andare a fare cosa, se no non riesco più a fare niente. Ok. E la faccio con comodo. C'è così con la potenza minima, come più chiara la voce. Vai Marco. Non è andato Marco. Infatti sono con la potenza minima per quello, capito? In modo che la voce sia più chiara, non me ne frega niente della potenza. Sono al minimo, so. A me lavora bene anche la valvola del... Già sai che lineare che c'ho io, già l'hai visto. Lo spiego CT, monta con la valvola americana, quindi lavora benissimo. È perfetta. Nel baracchino. No, quanto me. Si è andato a 9.40 a Santiago 9, quasi fuori frequenza, poi si è tornato a 9.40, poi si è andato a Santiago 9. Ho capito, dimmi, cosa è? Non ho capito. Ho detto, mentre stavi parlando, di 9.40, si è andato a Santiago 9, quasi fuori frequenza, non ho capito niente, poi si è tornato a 9.40, poi si è risceso. Ola, ci vuoi essere un po' di uovo? Adesso di no. No, adesso non posso sentire una trombetta sotto. Vabbè, l'apparato che non stavo più usando, il discorso è quello. Hai capito? Quando lo usi ti crea problemi l'apparato. Quindi la mano è entro l'armadio, l'ho tolto e sta funzionando. Evidentemente dice qualche falso contatto, qualcosa che non va, non so. Controlla. Va bene, vai, io rimango un attimo in quel Rix che metto a posto qua e stavo sistemando. Ho tolto i braccioli che mi davano fastidio. Ok, io sono qua, Antone, mi metto a posto, arrivo subito. Io d'accordo, non c'è problema, io sono qua. Passò. 3, 4, 5, 6, ora, strano, boh. Che c'è Antone, che mi ero allontanato? Niente, tutto attratto, boh. Sembrando fuori frequenza, ma mi sembra strano. Non lo so, è la paura che non uso questa panica qua, è la verità. Intanto mi rompo i coglioni questo cazzo di barchino, lo usi con ghiaccio, da caldo o freddo. il Connex 4000 Eco, hai detto? No, non è quello, no. È l'altro passetto più che altro. Cato, no. Uff, ragazzi. Ora, che cosa mi è successo? Lì bisogna farli revisionare, Antonio, dopo tanti anni. Quanto ci avrà? 30 anni quel baracchino? No, è lineare che c'ha problemi. È lineare, hai capito? Era fuori in terrazzino, adesso ho capito cos'è il problema. Mi dai? Porca, cazzo, non è possibile, aspetta. Ma va, fanculo, cazzo. E l'ideale aveva problemi, da. Mamma mia che freddo. C'è l'ideale, cazzo, che ha problemi. Porca puttana, cazzo. In terracino l'avevi lasciato, ma l'umidità, e lo credo che dà problemi poi, Gianni. Ehi, mi sono svegliato col freddo, cazzo. È già l'ugrido. Ehi, c'è freddo. C'è più freddo, io ho le pantofole ma le caviglie ce le ho nude, c'è un freddo alle caviglie, li stinchi, adesso mi metto quei calzettoni lunghi, tipo pipi calze lunghe mi. Eia, no, io mi sono coricato senza coperta, sicuramente è quello, mi ha preso freddo ai piedi. Ah, è notte, io stufa la sto usando solo la notte. Stufa elettrica oppure una bottarella di stufa gas, però di giorno sono restio, anche perché sto sempre cambiando stanza, no? Camera del computer, cucina, salone, camera mia, sono sempre avanti e indietro, e quindi è inutile accendere la stufa in una stanza se sto vagando per la casa. Lo sai già che l'altro giorno mi ho sentito che parlavate di riscaldamento, no? Tipo termosifoni, insomma. Io mi ricordo che quando andavo a trovare un amico, in pieno inverno io uscivo vestito da invernale, no? Per la maglia sotto, quella bella della salute, no? E arrivavi a casa di questo amico, ti dovevi denudare, ti dovevi togliere tutto. Golfo, camicia felpata, cioè devo stare in maglietta, c'era un caldo molesto che non ti dico, io quel tipo di riscaldamento così alto non lo tolleravo. No, ma qui io lo tollero alto, infatti qua l'hanno abbassato, qua l'hanno messo al minimo. Sì, allora eri tu che ne stavi parlando, sì, ho sentito che l'avevate abbassato perché era troppo alto, troppo. E guarda, a casa di quest'amico era tipo così. Io arrivavo lì e soffrivo perché sentivo, anche se ero in maglietta poi e pantaloni, sentivo l'aria viziata dal caldo, perché loro erano abituati così, stavano seminudi in casa, solo che io arrivando da fuori ero vestito per l'aria esterna, capito? E infatti il caldo non lo tollero, è la stessa cosa già che ne so, in pieno inverno, no? Tu sei vestito da inverno, no? Per l'esterno, già capito, no? Per fuori casa, poi qua in questi grandi magazzini, cazzo, ti devi anche lì denudare, togliere tutto, perché c'è un caldo boia terrificante. Eppure, nonostante ciò, io vedo gente che in pieno inverno, cioè bardati da inverno, entrano nei grandi magazzini e si tengono anche la giacca. Ho detto, ma questi non muoiono di caldo, non sudano, boh, come può essere? Io qua c'ho 24 gradi adesso, non è questo caldo eccessivo, normale, solo che io areggio la casa tutto il giorno e quindi un po' di freddo entra e la casa si raffredda. Sì, anche noi, mamma, il vizio anche di aprire anche troppo, no? Cambiare l'aria, perché ne so, vai in bagno, fai la popò, o ci teniamo lo piango, oppure areggiamo, no? È ovvio. E quindi il freddo entra, è come sempre. Adesso controllo i gradi che ho qua dentro, aspetta che ve lo dico, vai Antonetto. Ci siete rimasti, tu Antonio ci sei, bombolino, bombolone. Vedi come la luce il volante e siamo a posto. Ma non c'è bombo. La pace di roba. Per fare una commissione, Perché l'ho sentito quando ero in bagno che stava parlando. E che Claudio gli ha detto che il segnale è lo stesso. Sì, stavo facendo cosa giù mi. Ah, certo. E capo, magari a te ti arriva a fondo scala. E arrivi bene, sì sì. E capo. Meno male, là, già funziona tutto. Dai che sto scendendo giù che sto facendo cosa giù. Ti ho sentito, sono salito. Ok. Antonio, sei liscio? Sì sì, liscio. Facciamo una prova assieme, parla assieme a me, vediamo che... Sul grippo. Diciamo che non passa l'uno nell'altro. Parità. Io mi fa attaccare giù. È basso. Ma anch'io ce l'ho Gigetto. Allora siamo parità anche con Gigetto. Allora, chi ha parlato non passa. Chi era? Passa, ma sta scherzando. Era Pomponio, passava. Allora, fai una cosa, Bombolo, parla Bombolo liscio e Pomponio attaccato, vediamo che passa io. Bombolo è andato via, è andato giù. Lui ha attaccato poco fa comunque, lascia perdere, è l'ovvio. Ciao, non siete troppo vicini, non si può fare, Antonio è troppo attaccato a Gianni, Antonio. Non si può fare una cosa del genere. Cazzo, se devi stare a fare i buchi, ma perché per l'altro, proprio ci fa una lunga distanza. No, non è quello, Cla. Stamattina mi sono mutuato. No con cosa, ma bensì, cazzo. Scusate, persona, quindi a un certo punto, cazzo, sono già girato un pochettino. Perché io ero attaccato, io sono liscio. Quindi figurati tu. Fa cuffia e lì mi è rimasto un po' come si posso dire vabbè comunque sia il coso con Marco Condo non me ne frega niente, se mi ha passato con Marco Condo pazienza, ma sono vicini, lo sai, tanto sono vecchio, sono vicini e più anche dell'Italia stasera, capito? Mi sembra molto anche lì, vabbè, lì è aperto, quindi lui gioco con... adesso mi... mi viene in mente un nome adesso. Con Daniele. Scusa la gente, che io sono attaccato. Con Daniele mi sembra mutuato, quel cane morto. Non accusare la gente, ti ho detto, io sono attaccato, non posso essere attaccato, perché qua non va bene. Punto e basta. Si è attaccato gli assistenti, stacca, attacca l'altro. È attaccato a un muro, cazzo, ma che hanno messo che è attaccato? Ma boh, ma veramente. No, Antone, è chiaro di radio, è liscio. Non è attaccato, Antone, che è 9.15, attaccato mi arriva 9.22. Attacca allora, là, Antone, attacca. Aspetta. Lui, vabbè, che scendo giù che sto facendo roba. Attacca, non rompere, attacca. Mi? Non rispondo più il telefono, mi? È un tipo, manco il caffè. Comunque, Antone, da Gianni e da Marco ti crepa Antonio, lascia perdere. Logico, lì mi crepa sì, ma dell'Italia aiuta, la Daniele ce ne vuole. Anche la Daniele ti crepa, che ha dei baci. Quindi io devo cambiare l'antenna, in pratica. Là. La Daniele ti crepa, ma non ti crepa, fa niente la Daniele, lascia perdere, sei troppo dietro tu. Sei troppo dietro, non ce la fai a passare la Daniele, lui è davanti a Daniele. Claudio, ma non lo attacchi quello là? Non l'ho fatto ancora, l'ho portato dove ti ho detto. Ho capito, non pensavo attaccarci con la prolunga. No, ma non c'è manco più microfono, ho portato tutto a fare tutte le connessioni originali, tutto da fare bene, capito? Chiaro. Non vuoi chiaro, prolunga, danno il tempo che trovano. Voglio fare una cosa fatta bene, te l'ho già detto. Radio, microfono normale, microfono a tavolo, però c'è una cosa fatta bene, tutto originale. Andave, lo sentiremo. Allora, infatti è detto strano che non l'abbia ancora attaccato, lo volevo sentire. No, già bene, proprio l'ho fatto ieri, so che andava bene, quindi adesso posso mettermi a fare le cose. tutta una cosa provvisoria, capito? Tutto qua. Va bene, sto guardando ancora un po' di sport, lo sto mettendo a posto l'armadio, guardo lo cesso, questa roba che vedrete di fermarsi. Bisogna che il video fa un po' bombolette, anche quelle che ho trovato. Lunedì devo andare a comprarmi sto spray da Fusaro. L'aria e il coso e anche lo spray per il contatto, così non uso più il CRC. Questa è la tratta, usa spray per contatti, non CRC marino, quella è un'altra cosa, quella per la salsiede, una corrosione, spray per contatti ha un'altra funzione. Va bene, continuate, sono qua, come te la porto l'armadio che c'è qua in stanza, in sala radio, devo vedere quale c'è la bomboletta da buttare via, se funziona o non funziona, c'è anche quello della Kenwood, guardate una barca di soldi, capito, quella grigia originale, però la radio Kenwood da cominciare non ne ho, quindi la tengo, non si sa mai, vabbè, vediamo, riprendi Marco, dai. Sì, io a breve stacco così mangiamo qualcosa per farle. Sì, oggi siamo rimasti il pomeriggio in radio perché ero abbastanza in paranoia qua, non so dove sbattere la testa, voglio riuscire, non ce n'è perché sempre a Platamano non si può andare, è sempre uguale, il paesaggio, tutto uguale. E vabbè, a breve stacco. E poi, vediamo, magari mi organizzo al computer a fare qualcosa. Oggi la cena al computer, almeno mangiamo tutti per Natale. Quest'anno non voglio sentire parlare di Natale in casa. Non me ne frega nulla, non voglio vedere alberi di Natale, presepi, se no mi tocca bestemmiare pure. Non dirlo a me, figurati, noi siamo messi male. Marco Palatore l'ho comprato io, né Palatore quando ho comprato proprio niente. Ha detto mai questo Natale bisogna essere in due persone. Io voglio solamente preparato che da piovere su, scende da piovere giù, dare gli auguri a mia sorella, salire nell'uomo a casa. Più di quattro non puoi essere. Se dovessero farmi l'esposto, capito, mi do un po' di coglioni più che altro. Quindi non ci sono baci né abbracci, diceva quello. È tanto meno a Capodanno, hai capito? L'unica cosa di buono se dovesse abbassare le viti, infatti i negozi sono aperti a tardi, anche in bar, grazie a Dio. Quindi uno si sposta prima, arriva pronto alla cena e mangia quello che vuole mangiare. Ciao, amore mio, tanti saluti, buonanotte, a domani. Buonasera anche a lei. I deliranti discorsi di Pomponi, non ci ho capito niente. Perché non ci hai capito niente? Cosa hai capito tu, ma? Ho capito solo la parola ubriacarsi e boxo, quello ho capito. Stavo dicendo che in pratica al 24 conviene mangiare immediatamente. Dopodiché, siccome sono aperti i bar, prima di ubriachi, poi vai a casa a cenare e è da dormente, il discorso è quello. Il 4, chi cosa c'è il caffè? Il 4, mangio con pesce. Più di 4 non puoi avere dei parenti in casa, non lo sai. Ho capito, Vabbè. Adesso hai capito Tommaso. Sì, però cosa intende? Parenti conviventi o parenti comunque non conviventi? Perché faranno limitazioni anche in quel coso, cioè non è che ti porti amici a casa, faranno limitazioni per ridurre il contagio. Io non ho problemi. Più di 4 persone a casa non puoi prenderle, Marco, quindi ti conviene, guarda, festeggiare prima di Natale, dopodiché te vai a casa mezzo cotto, torni a casa, ceni e ti dormi. vabbè. Il Covid. Dai, vado in cucina, inizio a fare qualcosa, se no non me la sbrigo, dai. Vi lascio, riprendi Gianni doppio room, ciao Claudio, Pomponio, Bombolino, se l'ascolto, Daniele, non mi ricordo più nemmeno chi tutto c'era prima, ok? Ritenetevi tutti salutati, vai Gianni. Ciao Marco, ciao, buona carica, dai, siamo qua, se vuoi rientrare non c'è problema. Adesso io mi ricordo, riprendi, dai, saluta a Marco, poi ti dico. Ciao Marco, ci sentiamo a domani. Oh, ti ricordi qua? Natale scorso, guarda, è un po' passato meglio la verità di questo qua, ma comunque sia, se dovesse esserci le aperture che dicono, l'unica cosa conviene, guarda, già andare al bar, ti godi il bar, per dire, arrivi a casa, hai già cucinato, vai lì, ti dici di nome e ce la piglia in culo. A un certo punto, più di 4 persone, 4, 5, non puoi tenerle in casa tua. Che cazzo di data lo fai? Me lo spieghi. Per esempio al bar, gira a genere, vedi tutto al bar, prendiamo tutti, eh. Tu mangi per i cavoli tuoi, io mangio per i cavoli miei. A bara bera bara bera bara bera bera al bara bara bera bara bera bera bera bera al bar. Già non credo, cazzo, mi conviene di più, perché tanto si dice, se lo vessero, però, se lo vessero, speriamo che facciano più almeno alle 23, perché no, i bar, cosa fanno, andiamo tutti lì, vabbè, diciamo, sfumate, ci festeggiamo, tanto in casa non puoi festeggiare un cazzo, quindi andiamo a barra, poi, beh, cioè, in pratica una scusa, hai capito? Quando sei a casa, tranquillo, e che ti dirò, il discorso è quello, l'unica cosa è quella, la legge è stata l'inganno, ti ha dato un inganno. Sì, se no ti pigli 4 gasci di vita, ti pigliati. Sì, stasera l'ho pigliato 15 allo spin, l'ho visto io mi stasera, 15 in casa di birra, in una cena, tu figurati quanti sono. Sei proprio amico della birra. Andate avanti. Oh, Ocla. Sì, fate, io sono qua. Volete comandare una cosa per Mario già? Mi sento spazio per mettere Radio Biotop. Stavo pensando con la canzone di Masia, non me la ricordo, se non l'avrei cantata. E quella è Albara Bera. No, comunque non era Pomponio, ha detto che Pomponio ha visto un tale che ha comprato 15 casse di birra più altri alcolici, quindi sicuramente era di arrostita, di mangiata, eccetera, alla faccia del Covid. Poi dice, perché salgono i contagi? Perché si assembrano in 200 alle cene. Ma lei se una volta l'ho trovata, se la secca che c'era tre casse di birra, tre cose di lattina, ti ho dato un passaggio, vero lì? È vero. Non ve la andiamo a camminare, un caso chi vira la lì, era d'estate, è piena estate. E dove stai andando lì? A casa, io poso in macchina, ti do un passaggio, sei tutto pieno di roba. Adesso tranquillo che fa poco Giampiero sono già arrivati i soldi, quindi uscirà con la macchinetta elettrica, con la hai capito? Quindi andate tranquillamente là solo a farsi la spesa, dare lo spin e si prenderà la birra, le sigarette, quello che è, poi torna a casa sua, hai capito? E ci sarà la vita fra poco. Poi allora non lo controllate più. La già tirata per la tergente, ti capisco che è una specie di segreteria che la tergente, che lui si mette sopra, sai, e fa quello che deve fare. Si fa la spesa, si mette la spesa sopra, come si chiama? E tu pensavi che a casa. Non ci sarà la vita. Che bella quella che hanno messo in canzone, che cosa che era di Masia. Uia. Comunque è bella quella canzone, bara bera. Adesso è chiuso purtroppo, e quindi per fare una con la canzone. Ma così a una ripresa se tu ricombina. Intelligente, professore nostro. Di musica però. Professore di cos'è? Di musica. Professore di francese, Masia. No, è di, professore di musica, non di francese. Vabbè. Sì, sta arrivando. Aspetta che sta recuperando il cadavere. Antonello, per informazione, sei molto indietro di frequenza. Ciao a tutti quelli per me. Ciao, ciao, Omar. In che senso di frequenza? Il maracchino si è ridotto, gara. Non è possibile. Sì, Antonello, sei molto indietro di frequenza. Non so se 2 kHz o di più, però sei indietro. Cazzo, che ancora era indietro, lo sapevamo. Io non va bene, no, io mi sento bene. Avrà bene la birra che ha un baracchino. Ma va a far cuffia, vai, state via da tutti i conti, dai, cazzo. Però adesso hai toccato qualcosa, Antonio, adesso sei giusto. Guarda un po' adesso. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prefetto, vedi che c'era qualcosa di spostato. Ho staccato il lineare. Cioè il lineare ti fa uscire fuori frequenza. E come funziona sta storia? Non so così, vivo da me. Io non mi sono accorto di niente. Eia, vabbè, dai, io no, qualcosa me ne lo sentivo, vabbè, a dopo, ciao. Aspetta che recupero la Simona che sono prima che cada, 2 minuti. Tutto marriduccio sarà. Non ti preoccupare tu che devi scattare con quelle attaccolate di riale, te lo dico io. Non mi gira di cuglione, se no, cazzo, appena il maggiore di là, ho un pareggio, fuggio, chiamami. Non puoi tirare come già lo sai, non puoi tirare, Anto. Già sai qualcosa Claudio, quando facevamo le gare, cazzo, con coso, guarda che io. Te le faccio tutto a pelle di dietro la schiena, te le faccio, guarda. Ah, bravo, Ale. Non fate incazzare Claudio, lasciate a Claudio, non parla nessuno. Non mi cercate a me, lasciate me fare, non mi cercate, io sto bene così. Bravo, bravo, Antonio. Mi, Ale, lo fai da bravo, se no Antonio, glielo do io a legnare, senza comprarlo, capito? Ti faccio dare una bella pescata e poi me lo faccio restituire, bravo. Arrivare. Anche l'alimentatore però per alimentarlo, Meno impari. Amato, fermo luci. No, non c'è bisogno di alimentatore. Però il TL911, non c'è nessun problema. Come ti dice la portante si attende a tutti i lampioni che sono ricco. Ah, vabbè, quello va a 220, ok. E il 911 cosa aveva rispetto all'altro? Meno potente? Sì, un 2-300 watt in meno c'è rispetto all'FL2100, ma già va. No, perché io ricordo il 922, quello che hai detto è il 911, sarà la versione precedente o meno potente. Vabbè, allora, quarto QRT esecutivo, non riprendo. Sì, sì, è prima, il mio è vintage della prima. L'ho acquistato a poco, tra l'altro, mi piace, mi è sempre piaciuto, l'ho ripreso. Funziona benino, l'ho fatto sentire l'altra volta, quello lì. Eccolo lì, mi diceva Gianni, mi diceva, no, che veramente già Gianni che l'ho attaccato, che stavo parlando con Garrino. Eia! Almeno si intendeva Gianni con Garrino, una cosa impressionante con l'amplificatore. E magari ti faccio da Zis. Oh, vi volevo chiedere una cosa. 800 Gianni, 800, 850. Avanti, ma. Allora, questo è il 3009, no? Nessun problema col come si chiama? L'RMI Italy, no? Piccolo. L'altro giorno attacco un altro apparecchio, baracchino, no? 3 watt e mezzo pilotato, proprio 3 watt e mezzo di pilotaggio. Radio saturissima, male. Non capisco il perché, proprio con quel singolo baracchino accannato clamorosamente. O è una questione di impedenza di ingresso, non lo so. Proprio saturo a morte. Con, anzi, meno watt di pilotaggio di questo usato, non si spiega. Ma portate! Forse Antonello che non esce o innesca, boh. No, è Antonello, mi pare a me. Sta provando la potenza. Poi sciogli tutto, me. Attendere. A poi c'è la tendenza di lampione, c'è tutto, anche qui, c'è pure un fumo. Gli va in corto tutto, rimane attaccato, mi. Sicuro. E chi è? Non so, aspetta, cazzo, ho fatto una foto di Simona con le babbucce che gli ha regalato il coso, Alessia, della pantera piccoline. Passa, te le mando, Marco. No, a me piacevano le babbucce di Pikachu. Ma queste sono belle davvero, mi, non sto scherzando. Sì, ma laggiù sì, mamma che le faceva con le babbucce così di lana. Sembra una cosa così, ma ti scaldano i piedi davvero. E invece adesso c'è i piedi congelati, malgrado ci abbia la coperta addosso, adesso sono caldi e i piedi ce li ho fritti. Ti ho mandato, Marco, però è un po' al buio perché è molto in basso, capito? Nella base di sotto, non c'è sopra perché scalda troppo, capito? Guarda di monopolo che ha. È molto bello, il grigio primo, molto bello quotidiano. Molto molto bello, c'ha due tubi 811, due tubi 811, sono due valvole grosse, quanto un bicchiere, più piccole delle 3530 naturalmente, di quelle del 922, però funziona bene. Perché ha questa sigla strana, Y eccetera? Perché praticamente questo è stato fatto con un prototipo che ha fatto la Kenwood, capito? Hanno messo quella sigla lì, però nel manuale è un 911, 911S. Figurati. Ma cos'era, un trio ancora, un trio Kenwood? Sì, per quello c'è quella sigla. Purtroppo non si legge nessuna scritta qua, lo sai, le singole funzioni, sì, tunnel, odd, vabbè, si capisce, però il resto non si legge, troppo mossa, troppo, non mossa, è sfocata, cioè sembra una foto fatta, non sembra, una foto del cellulare, capito, il cellulare le fa full HD le foto, questa è molto molto brutta come foto. Non te lo sta facendo il mio cellulare, ma non ho già detto, non ho capito perché. Non ho capito il perché. No, ma è buio, Marco, se le punto il faretto, se le punto il faretto lo vedi bene. C'ho i faretti, io c'ho i faretti ai quattro angoli della stanza, capito? Sono spenti, perché scaldano anche qui. Li accendo quando lo fai dei lavoretti, delle cose così. Sì, comunque quello lineare, dai, il grigio che vedo i monopoloni neri, c'ha un bel amplificatore, No, l'altro ha detto l'armadio, oh, che è un buon beso, pesa 25 kg quello che l'hai messo, lascialo stare con me. Eia, va bene, allora adesso annuncio il quinto QRT esecutivo, non riprendo, a dopo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ma quello l'ho messo fuori perché... usato, l'ho lasciato lì, ma nel caso non avessi usato ce l'ho portata di mano, anche se devo fare collegamenti, è solo alimentato e boh, i cavi sono staccati. Basta guardare il cavo che arriva, non vedi il cavo che arriva dal muro, quanto è grosso. Qui ce lo cavo giù io. Ah sì, già sto mettendo a posto un po' di roba, cazzo, c'è un casino dentro questo armadio. Riprendi già. Cosa fa quello da 0 a 30, Claudio? Sì, 0 a 30. 0 a 30. Fa 10, 15, 20, 40, 80. Cavagà. Avanti, avanti a chi tocca. Pomolino, pomolone, avanti. Cappa, una bella bestiolina, Carlo. Adesso, è buone occhi. Allora dì che si attende a vedere il lampione. È buco che ci vuole, ma sto scherzando. Mi ha fatto attenti con Ghiccio. Lì ci vuole anche il capo buono perché scalda forte. Arriva fino a un certo punto, poi, uiuia. Cavo e PL, buoni. Te lo vedo tu, te lo mando la foto. Io ho il cavo chiaramente allineare. Cortona non ho problemi perché c'è l'Anson interno e poi c'è la Camille, quindi non è un problema. L'altro connettore che va ad allineare la radio è quello suo originale grigio della Kenwood con i PL in vetro, capito? Ceramici, per più alta temperatura. Lo puoi mettere questo lì ancora. C'è del G58 con quarantenna direi giusto. Te la scioglie, lascia perdere. No, ma lasciatelo lì all'angolino.